di quelli là che le puoi cambiare, ti porta della roba quando sono volenti. Quando la moglie andava in voce a tua, perché la moglie continua a imparare. indice di produzione di elettorato protetto. E però sempre semi-gonfiate, le abusate una Boltrona, una abusata la Barrucca, una lì la Boninieda, una lì la Boninesh, una lì la Sagetta Nuba, pari una lì la Giova Tragedioterapia. Fare una cosa alla grande, devi mettersi YouTube, foto, che cosa? No, Facebook no. Perché non mi interessa, avete un paio, no, non mi interessa. Chiudiamo e se ne riparla 24. Fatto bene. non possiamo mollare così, anche perché a fatto salvo stiamo facendo la linea nuova, la tavola maggiore, l'impianto nuovo, quindi è tutto pieno di dubbi, di cose, infatti abbiamo avuto una pedica e dopo mi diceva scalatore se stava scavando per pulire la linea, perché non si erano più i tubi vecchi che erano sostituiti, erano tutti garaggiati di bracca. Allora è entrato lo scavatore, cingolato, ha iniziato a pulire tutto, quindi ho pensato che ci mancano di lavori anche loro, poi vanno in ferie e rientrano venerdì prossimo. Io faccio 11, cos'è, 14, 14 e venerdì, 15 e 16, non lo so, venerdì, faccio 15 e 16, 17, 18, 19, 20 e 21, rientro venerdì, da venerdì a venerdì. Una settimana, da. Una settimana lavorativa alla fine, vabbè, giorni sabato e la domenica, però lavorativi sono 5 giorni così. Sì. Poca roba perché purtroppo molta gente l'hanno sfruttata, molta gente l'hanno non passato il corso, molta gente, sia su casino, siamo un po'. Non siamo in molti, allora c'è buon arrangiare al turno così, non c'è solo il chimico che è andato in fede e rientra con lui, o con lui vado io, e via così, e via così, e poi al prossimo anno si riceverà per compagno, va bene anche 5 giorni, tanto, non vuoi andare, io sono valido, mi ha fatto una. Poi c'era quello qua, l'ho fatto lì, faccio il butto, il guaio, il valore, mangio lì, quando mi stanco prendo la macchina e me ne salgo, a una serie di drinco, e guardo, finito il mio ma lì. Ma sei lì a Platanona lavorando? Stavo lavorando, arrivo, però fatto arrivo, non sai se lì c'è il libro, si mangia, prendo un valore, il guaio, tutto, allora già andato l'anno scorso, due anni fa. Ma lì, dove c'è la piscina, anche così? Esatto, lì, vado lì, si balla 8 euro, mezza giornata, tutto il giorno si riceve. Quindi, a 6 di euro, invece di andare a bere facilità, allora si riceve tutto il giorno, poi fai che ne spenda altre 30-40 per mangiare, e ti ho preso tanto piatto composto, non è che poi hai passato un altro lavoro, tranquillo, se poi si lontano da casa, in mezzo al casino, in mezzo al traffico, non è tutto recintato, non è che vengono a giocare a pallone sopra, o ti tirano in gioco, no, non ci sono le cose, quindi. Qui sono la rotonda, sono la rotonda, qui sono ancora vivo, sono qui. Si sta bene, c'è il bar, la musica, volante, e tutto, ti fai la voce, di vari, di giambi. E per me dentro a casa non si vede, niente di particolare. Un attimo che riprendo io così, vi saluto tutti, qua buonanotte. Io devo chiudere, dai. Buonanotte Massimiliano, buonanotte, ciao, ci risentiamo domani o alle prossime. Ciao, buonanotte. Ciao Pierpa, buonanotte, dai. Ciao, ci risentiamo domani, non c'è problema. Buonanotte. Ciao Pedro, buonanotte. Avanti a tutti. Gaffa, io mi manco un pochino. Bene, faccio lei. Gaffa, mi manco un po'. Ciao, Gianni sarà già con la bolla nel naso. No, Claudio, io per quest'anno mare zero, no. Non penso di andare, oppure qualche sera così, ma tarda sera, perché col caldo la bambina, io sotto l'ombrellone non ce la porto. Ma infatti, non è che... Hai veramente ragione. Io, la mia bambina è grande, non so quanto lo fare. Non so se... pure che lei non so, non abitudo, so che era dare pure comunque. La pronta adesso io e mia moglie abbiamo detto, no, ce ne andiamo, un bacio a fare. Con Zanzaro, ah, vai via. Sicilia. Sicilia. E beh. Maggio compreso, non vi anda? Ma non c'è tutto. Ah, adesso è zitto. È zitto col bisogno. Mi serve per andare a lavorare. Se tieni belli a chissà, gioco fisso. Schiaffa. Allora io, vabbè, la cosa l'ho fatta, ma non la farò mai più. Cioè, però nonostante tutto ero lucido, Non sbattavo una pena al muro, ma ero lucido, sono ferro a casa, tranquillo, tranquillo. Una volta ogni tanto già va bene, tu. Già va bene, anche io la faccio con un mese, sapete, non mi aggira, però se mi capita l'occasione me la prendo, però non a farle a quattro gambe, no? Sempre normale, no? Nel dovuto, capito? Chiaro, credimi un po', come se le macchine, ma decazzate, quindi non sono una persona, molti diventano violenti quando stanno le sbriaghine. A me non mi piace, a me mi piace ridere di cazzate faccia. Chi vuole allora, tanto, cosa ti pigli? Le bragghine la puoi baffarrate. Così vuole scherzare e ridere con gli amici, no? Così, una cantata, una trollallera e via. Facendo i quattro cazzate, così, presente. No, cazzo. Ce l'avevo con la sottoimpresa era guarda di ogni volta al vero, perché poi adesso che siamo entrati in ferie va bene, perché giornata non le perdi, ma poi devi perdere sempre quel paio d'ore per scendere lì, capito? Invece una volta di fare il bonifico non c'è problema. Quando arrivano sai che sono nella tua banca e via, non stai lì a romperti la scatola. Io nei lavorativi sono qua, guarda, per il bonifico ci passano 3 giorni, quindi se sono puntuale con la data del bonifico, il terzo giorno lavorativo sono già effettivo e mezzo, tu c'è solo in mano, la stessa cosa fanno noi, uguale che ci si ritica. Non hai problemi di niente, fate gli dire, perché guarda, se un po' di piatta, può essere anche produttore, se si può devi cambiare a Sassari, ti fanno aspettare, chiedono bene fondi, con domande, come vai, non ce l'ha qui e là, uno a uno cava di tu, anche ti vuoi dove. Se vuoi vado a Milano, lo cambio a Milano, quindi faccio qui. Infatti io non riesco a capire perché devono fare queste storie, Alghero, se va a cambiare la Sassari fuori piazza, sì, però se ti ramattessi banca, capito? Ti fanno addirittura. A noi mi hanno fatto aspettare 2 ore, telefonate da una parte e dall'altra, ma non ti ammazzi. Ma poi io ho sempre fatto così a bonifico bancario, capito? È una cosa più facile. Vai lì con il banco, ma ti pigli, fai, giri, come ti pare ti piazzi. Se hai problemi vai tu nella tua banca, non devi andare lì da loro. E tanto a loro non le costa niente, capito, fare il bonifico. Grazie. a vedere la GPC, si è aperto, e riprendo questi due microfoni. Vedi un po', dai, vedi un po' com'è. Se non è aperto, quando apre, se lo fa lui, si ricompra. Vabbè, si può fare una cortesia, già si fa, dove va. No, ma poi Giovanni non va in gamba. Giovanni originale è molto in gamba, io conosco bene anche di persona, quindi è una persona squisita, educata, tranquilla, se ti può aiutare ti aiuta, è in gamba, non c'è da dire niente, capito? Ho chiamato tante volte, o non mi sente, o non lo so. Il suo problema è proprio quello, che non sente, capito? E in poche parole, io non so se tu sai dove la cava di coso, della bentonite, nella strada del lago di Baraz, e rimane in poche parole dentro un buco, ed è una zona un po' negativa, capito? Lui quando ascolta qualcuno vuol dire che esce fuori dalla cava e va, attraversa la strada e va a scaricare, allora lì sente a tutti. Ma quando scende giù per caricare no, negativo, no, non senta nessuno. Solo a me perché io sono in alto, ho capito. Papa, pure parla di papa. Io ti credo, in caso c'è un vuoto sotto, Anto, io ti credo che arriva. Papa, comunque Bobore non mi sentiva la parte. Vabbè, ma Bobore è diverso, Bobore non lavora dentro una cava, dentro un buco. Bobore è fuori nelle campagne. Si sposta col trattore da tutte le parti e magari rimane più aperto, capito? E niente, no, arrivare già arriva, intanto io ti credo che arrivi, c'è un 2000 sotto, per forza arriva. Però la ricezione parlo, la ricezione che è un problema. Già, ma da troppo, ma la ricezione... In ricezione no, non ne ha perché è dentro un buco, capito? Ma quando esce fuori già l'ascoltano. Io adesso per esempio vedi oggi da lì da Montedoglia con Gigi Vulcano era lì al bifio di Macomer, io liscio come l'olio e lui mi ascoltava benissimo, proprio bene alla grande. E per esempio Salverio ho iniziato a sentirlo quando era lì al bifio di Mores e io da Macomer l'ho accompagnato fino a Porto Torres, lo sentivo sempre bene, tranne un punto lì nella discesa di Silico che lo sentivo a tratti, ma comunque l'ho accompagnato fino a Porto Torres e l'ho ascoltato perfetto, perfetto. No, già, comunque tu da casa tua lo senti anche con la mano, ma con la zona. Sì, sì, io da casa mia lo ascolto prima di arrivare a Macomer. Da lì lo accompagno fino a Porto Torres, da tutte le parti. Ciao.